giorno che diventerai una trans. Finalmente il pisello andrai a tagliare. Sono amiche, i tacchi della mamma, ti rubi e te li metti come una puttana. E sotto il tuo letto hai uno zainetto con tanti perizoma per il tuo culetto. Se una tra houseboy diventa, Jerry te lo deve tagliare. La vagina lei ti farà e sarai una vera trans. Dottoressa Sfogacior, non aver paura, il tuo sogno si sta ad avverare. Sono anni che i tacchi della mamma, i rubi e te li metti come una puttana. E sotto il tuo letto hai uno zainetto con tanti perizoma per il tuo culetto. Se una trans poi diventa, Jerry te lo deve tagliare. La vagina lei ti farà e sarai una vera trans. Come